Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia in diretta anche oggi per l'ultima giornata dallo SMAO alla fiera di Milano City. Di cosa ci occuperemo oggi? Beh, partiremo con temi di carattere nazionale e mi riferisco in primo luogo alla trattativa molto difficile e anche un po' arenatasi per un accordo sulla produttività tra sindacati, Confindustria, ABI e altre associazioni Rete Imprese per l'Italia. Parleremo anche chiaramente di mercati finanziari che oggi sono leggermente deboli, soprattutto a Milano e a Madrid. In realtà Parigi guadagna lo 0,40, Francoforte lo 0,60, Madrid perde lo 0,1, Milano lo 0,27%, ma su Milano pesa soprattutto la vicenda Monte dei Paschi e dopo l'abbassamento del rating ne parleremo nel corso della borsa, meno 6,20% nel corso dell'aggiornamento di borsa. Chiaramente meno 6,20% in questo momento, pesante anche Salvatore Ferragamo, meno 4,60, Campari meno 3, Mediaset meno 2,80, Impregilo meno 2,60%, Moody's, l'agenzia che dà i voti ai debiti degli stati ma anche dei privati, ha abbassato infatti il voto del Monte dei Paschi a due livelli e la borsa ne prende atto con la reazione che abbiamo visto. Dicevo, per quello che riguarda i temi, oltre all'accordo sulla produttività che ancora è di là da venire, il governo sperava di arrivare al Consiglio europeo di oggi con un accordo già fatto, parleremo dell'asta dei nostri BTP. Già ieri ce ne siamo occupati, oggi era l'ultimo giorno, comunque sta andando molto bene, ancora meglio di ieri, ne hanno comprati per 5 miliardi oggi di BTP italiani a metà giornata, 10 miliardi è il saldo complessivo delle tre precedenti sedute. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Italia riesce a trovare finanziatori per il suo debito, questo vuol dire l'emissione di un BTP o di un bot, pagando anche un po' di meno perché gli spread sono in calo. E devo dire che questo fa il paio con quanto è accaduto in Spagna. La Spagna ha collocato 4 miliardi e 600 milioni di titoli di Stato con scadenze 2015, 2016, 2022 e i tassi sono scesi in tutte le scadenze. Lo ripetiamo spesso, quando un paese è considerato a rischio deve offrire tanto, quindi tassi alti, per trovare finanziatori per il suo debito, più un paese viene considerato affidabile meno deve offrire come rendimento dei titoli di Stato. Ecco perché è una buona notizia che la Spagna e anche l'Italia debbano offrire meno, pagare meno in interessi per trovare compratori per il proprio debito. Sono calati infatti i tassi spagnoli al 3,22% contro il 3,67% precedente e molto bene anche il BTP a 10 anni spagnolo al 5,45%. Lo spread italiano è stabile a 311 punti, il BTP italiano in questo momento rende il 4,75%. E varie dichiarazioni anche del ministro Grilli vanno nella direzione che noi stiamo osservando da alcune settimane, cioè si sta calmando la situazione in Europa, c'è chi dice potrebbe essere una calma prima della tempesta, ne parleremo nella seconda ora del programma perché l'altro tema grosso oggi sarà il Consiglio europeo da un lato, che dovrebbe discutere di comune vigilanza bancaria, cioè di dare alla Banca Centrale Europea il ruolo di fare la banca delle banche centrali, la banca delle banche, un po' quello che fanno le banche centrali nei singoli paesi, sulle banche dei singoli paesi. È un'esigenza che molti paesi chiedono alla luce del fatto che la Banca Centrale Europea in questo momento con l'operazione di Mario Draghi si sia impegnata ad aiutare i paesi in difficoltà e allora si dice se i soldi della BCE serviranno per aiutare alcuni paesi, la Banca Centrale Europea deve avere una funzione anche di vigilanza bancaria suprema in tutta l'area euro. Ma parleremo dei temi europei anche perché questa mattina Angela Merkel, intervenuta al Bundestag, quindi la cancelliera tedesca, ha detto di essere a favore di un commissario europeo con poteri, con superpoteri, anche di ingerenza, testuale la definizione, nei confronti dei budget dei singoli paesi. Cioè l'idea di un commissario europeo che possa intervenire mentre i singoli paesi fanno le leggi finanziarie, non dopo, e ingerendo, quindi entrando nella materia e dicendo che cosa, o no, se va bene o non va bene una legge finanziaria, una legge di bilancio. Da questo punto di vista È arrivata una replica di François Hollande, del premier francese Hollande, che ha detto per ora questo non è un tema, parliamo di vigilanza bancaria comune, ma è anche chiaro che sul tema dell'ingerenza cercheremo di capire dove voglia arrivare la Germania, una Germania molto più morbida nei confronti della Grecia rispetto a mesi fa. Ancora dalla Grecia, tensioni, le avete ascoltate dei nostri GR, la persona che è morta per, durante le manifestazioni, in realtà è morta per infarto, ma ci sono stati scontri anche molto pesanti in Grecia nella giornata dello sciopero nazionale. Anche di questo parleremo, 349-238-6666, purtroppo anche oggi abbiamo, e oggi è anche abbastanza corposa, abbiamo il nostro appuntamento quasi quotidiano con gli sprechi delle regioni, ma non solo, e quindi sugli sprechi del denaro pubblico. Rapidamente le altre notizie in breve. Rallenta la crescita cinese al 7,4% contro il 7,6% del secondo trimestre dell'anno e l'8% del primo trimestre. Praticamente il dato del terzo trimestre dell'anno è il più basso quanto a crescita dall'inizio del 2009, quando anche la Cina risentì dello scoppio della crisi. E questo vuol dire che, come da più parti stiamo segnalando e ci viene segnalato, che oggettivamente la Cina sta rallentando. Io ricordo che sotto il 7%, o meglio il 7% di crescita, è la soglia ritenuta minima dal governo cinese per continuare a garantire questa urbanizzazione delle campagne, quindi questo afflusso dalle campagne verso la città. Morgan Stanley oggi ha diffuso i conti del terzo trimestre, un rosso da $1 miliardo nel terzo trimestre dell'anno. Al netto però di alcune voci non ricorrenti, in realtà l'utile è di 28 centesimi per azione. Oggi domani si discuterà, e qui veniamo all'Europa, come già anticipavo, della vigilanza unica bancaria che Francia, Spagna e Italia vorrebbero operativa già dal 2013. Ma ripeto, oggi il commissario europeo Barroso ha detto che l'Unione Europea è pronta a agire se la Spagna lo chiederà. In Spagna, intanto, nonostante il buon andamento dell'asta dei titoli di Stato, i crediti di dubbia esigibilità da parte delle banche, quindi quei crediti che forse e probabilmente le banche non rivedranno più indietro, hanno toccato un nuovo record al 10% del totale dei prestiti. Vuol dire che per ogni 100 euro che le banche spagnole hanno prestato, 10 euro probabilmente non li rivedranno indietro. Le sofferenze bancarie in Spagna a questo punto hanno toccato una cifra enorme, 178 miliardi di euro. Della Grecia dicevamo, ma oggi di Grecia ha parlato anche il ministro dell'economia Grilli, che ha tranquillizzato e ha detto la Grecia sicuramente si salverà. Sicuramente si può salvare e si salverà. È chiaro che anche per loro questo percorso di riforma e di ristrutturazione della propria nazione è un percorso molto difficile, anche più duro, anche se sicuramente più duro che da noi. Però non ci sono alternative. Ma ripeto, torneremo a parlare dei temi europei nella seconda ora del programma. Veniamo all'Italia. L'Italia quest'anno non ha sforato i tetti europei di produzione di latte. E questo per quello che riguarda il periodo dal 1 aprile 2011 al 31 marzo 2012, non dovrà quindi pagare multe alle casse dell'Unione Europea, lo ha annunciato la Commissione Europea oggi a Bruxelles. Parliamo adesso delle regioni, con un appuntamento che riguarda, che sta diventando, come dicevo, purtroppo quotidiano. Una prima notizia buona però c'è, le altre che vi leggerò sono notizie obiettivamente che abbisognano di flaconi interi di Malox, e vi metto subito in guardia. La buona notizia è che oggi al Senato è passata con 246 sì e due soli astenuti, e quindi con la maggioranza dei due terzi necessaria per i disegni di legge che toccano la Costituzione, la riforma della composizione dei tre consigli regionali di tre regioni a statuto speciale. Praticamente vengono coinvolti il consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia, che deve essere ridotto. Praticamente i testi prevedono che il Consiglio regionale siciliano passi da 90 a 70 consiglieri, quindi 20 in meno, quello sardo da 60 e quello friulano si è ridotto a 60 da 90, anche quello sardo, e quello friulano sia composto da un numero di consiglieri pari a uno ogni 25.000 abitanti, quindi dovrebbero scendere a 49 consiglieri. E questa è l'unica buona notizia che ci arriva dalle regioni, quindi torniamo a parlare di come, e anche oggi la Sicilia la fa da padrona, ahimè, di come vengono utilizzati i soldi dei cittadini italiani. Abbassare, potrebbe più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. Eh sì, partiamo anche oggi dalla Sicilia, perché adesso come posso prendere? Insomma, dal 2008 ad oggi la giunta regionale siciliana ha stipulato 600 contratti di consulenza esterna per un totale di 8 milioni di euro, ma non è finita, perché Lombardo se n'è andato, ma nell'andarsene, diciamo, se n'è andato in bellezza, mettiamola così. È arrivata infatti notizia che il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione del Personale ha stipulato 209 contratti con 209 esperti che, secondo quanto recita il decreto firmato dal capo del Dipartimento Ludovic Albert, avranno il compito di selezionare le proposte progettuali in materia di istruzione, formazione, lavoro e di inclusione sociale. In sostanza questi 209 esperti dovranno valutare i progetti finanziati con le risorse dell'Unione Europea, in particolare quelli relativi al Fondo Sociale Europeo. Non si capisce quanto lavoreranno. L'unica cosa scritta nero su bianco è che la durata sarà minima di 4 ore, con un compenso giornaliero di 200 euro lordi o 250 se lo scrutinante risiede a più di 250 km dalla sede di svolgimento dell'incarico. Insomma, la spesa minima però è di 42.000 euro, in realtà sarà molto molto di più, perché è difficile che questi consulenti lavorino un giorno solo per 4 ore, quindi andrà almeno moltiplicata per 4 o 5. Ma la cosa che mi fa impazzire è, mi date una base della Maiella, un tango della Maiella, che questa, eccola qua. La cosa che mi fa impazzire è la motivazione con cui la Regione Sicilia dice: abbiamo bisogno di altri 209 esperti esterni per valutare i progetti da finanziare con i soldi europei. La motivazione è questa: considerato che il personale amministrativo regionale in dotazione alla Regione Sicilia risulta sottodimensionato rispetto alle esigenze. Sottodimensionato vuol dire che non ne hai abbastanza, e infatti non sono abbastanza i 20.288 dipendenti della Regione Sicilia, di cui 17.000 a tempo indeterminato, 3.000 con contratti a termine, e non sono abbastanza i 1.800 dirigenti. Mi sembra che di sottodimensionato qua ci sia solo il buon senso. E poi andiamo anche alla sanità, perché nonostante sia bloccato dal Ministero il contratto per i primari, in Sicilia ci sono tra pochissimi giorni le elezioni, e quindi ecco che non si è fermata la caccia a primari di reparti, direttori di strutture e responsabili di uffici, incarichi quinquennali o biennali da assegnare solo per titolo e colloquio, che sono stati banditi in barba a tutte le norme ministeriali e che suggerivano di bloccare le nomine in attesa dei tagli ai posti letto previsti dalla spending review. Cioè, se non sai quanti posti letto avrai, è difficile poi fare un primario. Non importa, perché la SP di Catania ha bandito il concorso, i posti da riempire sono quello di direttore di radiodiagnostica, di neuropsichiatria e due responsabili di psichiatria. la stessa cosa per la SP di Trapani e la SP di Enna e ancora il laboratorio di sanità pubblica. Tutti i termini scadono il 25 ottobre. Questo nonostante la spending review cancellerà almeno 2000 posti letto in Sicilia. Addirittura la SP di Agrigento ha messo a concorso 124 posti a tempo indeterminato in varie discipline mediche. A Siracusa, senza attendere la spending review, l'azienda sanitaria ha dato via il rinnovo a 30 graduatorie con scadenza il 29 ottobre. A Messina la SP ne ha create 4 e anche l'azienda sanitaria di Palermo ha messo a concorso 81 posti per 15 e ha avviato la selezione per 15 graduatorie da rinnovare. E chiudiamo in bellezza però, perché oggi io vi faccio ascoltare che cosa ha detto nella trasmissione di Alessandro Milan il deputato dell'UDC Tassone, che ha sostenuto sostanzialmente che quello che prende lui per aver fatto l'attività di parlamentare è poco, è pochissimo rispetto a quanto guadagnano i direttori dei giornali o altri manager. C'è una piccola differenza, se lo faccio ascoltare Tassone, che Tassone scambia per lavoro quella che dovrebbe essere invece una vocazione, un mettersi al servizio. Cioè fare il politico non è un lavoro, quindi è inutile che faccia i ragionamenti ma i manager delle aziende di Stato prendono molto di più, a parte che sono stati abbassati, dovrebbero essere anche più abbassati, ma quelli sono lavori, professioni, c'è cioè un contratto di lavoro, e se il manager ha ragione è giusto che gli venga dato il bonus, secondo noi sono troppo alti, ma va bene così, ma è lavoro, questo è un servizio per la collettività, viene eletto per servire i cittadini, non perché ti manca il lavoro. Tassone ha già fatto i calcoli anche del vitalizio che le spetta dopo tante molto modesto, mi hanno detto 6.800 euro. No, scusi, modesto, 6.800 euro. 6.800, sì, perché se lei pensa quanto prendono le liquidazioni di amministratore dell'Enel, delle ferrovie che si fanno. Capito, ma anche, scusi, i metalmeccanici dopo 40 anni non prendono... Dopo 40 anni prendo cosa? 6.800 euro con altre situazioni che verranno ad essere decurtate. Questo qua, io mi scusi, è molto modesto secondo lei? Se io sto parlando non del netto, sto parlando ovviamente delle... Sì, ma mi scusi, onorevole Tassone, si ponga nei panni. Aspetti, mi faccia dire una cosa, si ponga nei panni di un metalmeccanico che lavora 40 anni, prenderà 1.000 euro di pensione al mese. Io vorrei avere. E l'indennità di un direttore, purtroppo la devo lasciare, di un direttore di un giornale. Sì. Lei lo sa che i direttori dei giornali, o soprattutto i direttori della RAI, sì, e prendono i 15-20 mila euro anche quando non sono più direttore? Beati loro. No, beati, lei lo sa. Ma io sono di Radio 24, la RAI. Allora, io la saluto moltissimo. Vabbè, grazie. Io parlavo nonno del netto, parlavo... Ovviamente sì, però molto modesto, capisce che 6.800 euro, molto modesto. Sì, beh, saranno 3.500 in tutto, perciò ed è uno modesto. Pensa che ci siano 10, quindi se lei ha qualsiasi direttore generale prende molto di più. Non so, cosa volete che diciamo? 6.800 euro lordi di vitalizio. Il vitalizio non dovrebbe esistere. La pensione è una cosa diversa, viene versato il contributo dell'azienda per cui lavori, o tu se sei una partita IVA ti sottoscrivi un tuo fondo previdenziale e con i soldi, parte dei soldi che dovresti avere vengono messi per la pensione. Uno fa il parlamentare come vocazione, come spirito di sacrificio, come atto nei confronti della collettività, è giusto che venga pagato finché è parlamentare e poi torna a fare il suo lavoro. Tassone, lei ce l'ha un lavoro e prenderà la pensione dal suo lavoro. Poi viene anche a raccontare che 6.800 euro lordi sono pochi con le decurtazioni che ci sono state sulle pensioni e con gli esodati che aumentano di giorno in giorno come le margherite. Tassone, se mi sente, le giro questo passaggio che magari non ha mai ascoltato di un film che si chiama Quinto Potere, Sidney Lumet. Voglio che vi alziate proprio adesso, e andiate alla finestra, e l'apriate, e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero, e tutto questo non lo accetterò più! It's getting late, but I don't mind. E guardi Tassone che sono anche buono, perché se lei vedesse i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Ma non avete ancora capito che, voglio dire, sono dei boomerang colossali, dire che 6.800 euro lordi sono una vergogna perché i direttori di giornale prendono di più. I direttori di giornale, come i direttori di uno stabilimento, hanno un contratto privato con un'azienda e bravi se riescono a ottenere il massimo, come in tutto il mondo del privato e anche del pubblico. Non è un lavoro fare il deputato o il senatore, non è un lavoro. Ce l'ha un lavoro Tassone, ci chiami, ci dica che lavorava, avrà preso i contributi e con quel lavoro si beccherà la pensione. Poi guardi, siccome la media delle pensioni in Italia è 800 euro, Nicoletta Picchio, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, vabbè, non ti faccio commentare Tassone perché si commenta da solo, ma qui parliamo di produttività, perché mentre c'è una classe politica, non tutte, ma alcuni, che sostiene che 6.800 sono pochi, sono troppo pochi lordi, intanto il governo chiede a sindacati e Confindustria, ABI, quindi banche, Rete Imprese per l'Italia, quindi artigiani e commercianti, di arrivare a un accordo sulla produttività. Monti puntava ad averlo già oggi, in modo da presentarlo a Bruxelles, al Consiglio europeo. Mi sembra che qui siamo abbastanza ancora in alto mare. Nicoletta. La trattativa è ancora in corso. Adesso è appena uscito il presidente di Confindustria, Squinzi, e ha commentato, ha detto che la trattativa è complessa, che rimane ottimista e l'accordo non è saltato e che si continua a lavorare. Ora, in questo momento Squinzi è a Bolzano, ha un incontro con gli imprenditori tedeschi, e invece a Roma, nella sede dell'ABI, c'è un incontro tra le altre imprese, cioè le banche, le assicurazioni, le cooperative, artigiani e commercianti e i sindacati. E quindi si continua a trattare, indubbiamente, come dicevi tu, l'appuntamento del vertice europeo del 18 è saltato, però ieri il governo Passera, i ministri Passera e La Fornero hanno incontrato le imprese e hanno chiesto un'intesa di alto profilo, e quindi le parti sono presi qualche giorno di più di tempo per riuscire ad avere un accordo che poi possa arrivare veramente ad un aumento della produttività. Ancora da questo punto di vista oggi Angeletti, segretario della UIL, ha detto: ma qua l'accordo si profila come un piccolo accordo, un accordicchio, ha definito il presidente Confindustria. Squinzi ha detto: no, resto ottimista, sono sempre ottimista, ma e la CGIL ha detto: il confronto va anche bene, ma è il governo che lo ha ostacolato, riferendosi all'incontro di ieri dei ministri Passera e Fornero con le imprese. Qual è il nodo che non si riesce a superare per ora? Ce ne sono un paio soprattutto. Uno è la parte dei soldi che vengono erogati a livello nazionale e, come hanno stabilito i chimici nel loro contratto poche settimane fa, che potrebbero essere spostati a livello di azienda per poter essere legati ad un aumento di produttività e utilizzare anche i soldi che il governo ha stanziato per l'anno prossimo e per il 2014 per la detassazione e decontribuzione appunto dei premi di produttività. E questo è un nodo. Dopodiché c'è anche il problema di poter derogare alle leggi con degli accordi sindacali su quello che riguarda le ferie, i turni, l'orario di lavoro e anche il demansionamento, cioè la possibilità di utilizzare il personale con una mansione inferiore rispetto a quella per cui è stato assunto, però a livello temporaneo e nei momenti di crisi. Questi sono i due nodi principali su cui si sta ancora trattando. E indubbiamente ci sono delle esigenze anche diverse, perché il mondo delle imprese è sicuramente molto complesso. Gli artigiani e i commercianti hanno delle realtà molto piccole, dove per esempio la contrattazione aziendale non si fa o si fa poco, si fa a livello territoriale, e quindi indubbiamente mettere insieme le esigenze di tutta questa realtà è sicuramente complesso. E comunque una data su un possibile accordo, perché loro hanno preso altro tempo oggi, tutte le cosiddette parti sociali, è ipotizzabile entro fine mese o è troppo presto per dirlo, visto che c'è un nuovo incontro che è iniziato il 15? Stanno trattando di continuo, penso che sia una questione di giorni, perché sono ore e ore di trattative. Il testo è di 6 pagine, non è un testo lunghissimo, quindi i nodi sono due, insomma penso che nel giro di qualche giorno, se si vuole fare l'accordo, ci si debba arrivare. Quindi diciamo non in questa settimana, ma sicuramente entro ottobre, mi sembra abbastanza fiducioso su questo. Sì. Entro la prossima settimana. Perfetto, grazie Nicoletta Picchio che grazie come sempre segue i temi relativi a Confindustria, sindacati e le cosiddette relazioni industriali. Adesso per favore non inondate i messaggi su Tassone. Tassone si commenta da solo. È vero che è dal 1976 che è in Parlamento, forse anche questo è il problema, perché se uno esce dal mondo del lavoro nel 76 è difficile che adesso un'azienda ti riprenda, Tassone, questo lo capisco. Però mi stanno scrivendo metalmeccanici o figli di lavoratori normalissimi i cui padri prendono 800 euro al mese di pensione, lei ne piglia 6.800 di vitalizio lordi e sono pochi. Non so, uno specchio? Ce l'ha, immagino, no? In casa. No, tutto per così, per guardarsi in faccia. Anche perché poi essere dal 76 in Parlamento, cioè, c'era ancora il PC, c'era la DC, c'era il muro di Berlino, non esistevano i cellulari, e Twitter, Facebook, no, uno deve anche aggiornarsi. Commentiamo la buona asta dei bot, terzo giorno di asta dei BTP, scusatemi, italiani, e la borsa, meno 0,30%. Tassone, lei non ha capito che cosa ha combinato su questo programma e sugli altri, siamo inondati di sms che insomma, non sono esattamente edificanti nei suoi confronti, però dico... facciamo una cosa, adesso lei ha detto che 6.800 euro di vitalizio sono pochi perché lei è in Parlamento da 76, nemmeno parlasse di un lavoro, non è un lavoro fare il politico. So che poi alcuni come lei invece l'hanno scambiato per un lavoro, però dal 76 al 2012 no, è un lavoro, un rapporto continuativo a tempo indeterminato, potremmo dire, senza che ci sia la pausa richiesta dalla nuova riforma della Fornero. Però io dico una cosa, lei ha 6.800 euro del suo vitalizio, benissimo, non si ricandidi, lo faccio sapere anche al suo segretario Casini, visto che vogliono 20 nuovi in, volti e vento nuovo in politica. Ci ha fatto venire in mente una cosa, è il Marchese del Grillo. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Era Marchese del Grillo, no, non Tassone, ci mancherebbe, non ci siamo mai permessi. Ma visto che parliamo di soldi, visto che 6.800 euro di vitalizio sono pochi, finalmente il governo intanto è riuscito, sembra, a sbloccare i soldi per i terremotati, che in questo momento hanno altri problemi rispetto al vitalizio, dell'Emilia Romagna e parte della Lombardia e del Veneto, quelli degli SMS, perché c'era pure il caso strano che gli SMS mandati per sostenere i terremotati dell'Emilia Romagna erano andati, sì, ma potevano ancora essere distribuiti. Oggi il capo della protezione civile Franco Gabrielli al microfono della nostra Raffaella Calandra ha detto la prima tranche arriverà. Ad oggi dei 15 milioni e 100 mila euro promessi sono arrivati in cassa poco oltre 13 milioni e mezzo. Tra la fine della settimana e l'inizio di questa settimana abbiamo avuto tutti i progetti che le tre regioni hanno in qualche modo individuato. Appena ricevuti i progetti li abbiamo comunicati ai garanti, una volta ricevuto il via libera cominceremo ad anticipare il 30% delle somme e poi mano a mano che ci saranno gli stati di avanzamento delle opere verranno corrisposte nei confronti dei donatori. È verosimile che entro la fine dell'anno almeno arrivi la prima tranche di questo 30% di aiuti? Molto prima. Ecco, in questo momento in cui tagli generali e la parola d'ordine, ci sono ripercussioni anche per voi? Avete delle preoccupazioni? I tagli ci sono incidenti, tant'è che io ho coniato questa sorta di slogan: noi non dobbiamo guardare a una ipotetica ideale protezione civile, ma a una protezione civile che possiamo permetterci. Quando avremo il quadro preciso della legge di stabilità, comprenderemo quanto si è ulteriormente inciso in questo delicato settore. C'è una protezione civile un po' azzoppata? Una protezione civile che è assolutamente figlia del suo tempo ed è espressione del paese in cui è chiamata ad operare. Questi tagli rischiano di incidere anche sulla vostra capacità e possibilità di intervenire nelle situazioni critiche? Dipenderà dalla profondità e dall'estensione del taglio. Io comunque non riesco a capire, ma è la mia colpa, è mia ignoranza, perché se mando un sms per i terremotati e valgono 15 milioni di euro nel complesso, ancora una parte debba arrivare ai terremotati. Ma ripeto, è una mia ingenuità. Per quello che riguarda invece le richieste che arrivano alla politica, per favore cambiamo tema adesso, però trovo molto corretto chiedere, visto che il governo ha introdotto questa bellissima retroattività, da alcuni di voi chiamata attività da retro, sugli sgravi fiscali, le detrazioni fiscali, che è operativa già per il 2012, quindi anche se uno le va prese in considerazione violando lo statuto del contribuente diventa retroattiva una norma, perché non si possa chiedere la retroattività per il provvedimento sui vitalizi dei deputati? È vero, Veltroni non si candiderà più e avrà 8.000 euro di vitalizio al mese. Benissimo per lui, ma non si può chiedere la retroattività dei vitalizi? Se lo fate per la gente comune, su spese, su detrazioni che uno già aveva messo in calcolo per il 2012, si può fare anche con i deputati e i senatori. Retroattività, il 50%, tanto ce la fai, voglio dire, se una pensionata ce la fa a vivere con 800 euro al mese, ce la può fare anche un deputato a vivere con la metà. A 7:48 minuti, adesso parliamo di borsa. Una risposta però a un ascoltatore che scrive dallo stesso numero di cellulare e ogni volta fa finta di essere qualcun altro. Io temo che sia un politico, perché dice: ma insomma, se io volessi impegnarmi in politica, dice ogni volta di essere un agente, un operaio, e chi mi riprenderebbe dopo magari 10 anni di Parlamento e i contributi che non ho versato? Ecco perché serve il vitalizio, se no la politica la fanno solo i ricchi. No, mi scusi, esiste l'aspettativa? Lei ha un lavoro, si mette in aspettativa per l'attività politica, se è un libero professionista tornerà a fare la libera professione, se è un dipendente ha l'aspettativa. Ma perché io devo pagarle il vitalizio a vita come una pensione perché lei ha fatto il deputato? È un onore fare il deputato e il senatore, è mettersi al servizio della gente. Ma lo volete capire questa cosa, che è il deputato al servizio dell'elettore e non l'elettore al servizio del deputato? Non so. Borsa. Leggermente negativa oggi Milano, meno 0,30%, positiva Parigi, più 0,20%, Francoforte, mezzo punto percentuale. Delle aste dei titoli di Stato parleremo tra un attimo. Vorrei però, come sempre con i colleghi di Radio Core e Sole 24 Ore, commentare la giornata di borsa, che oggi si chiama, a mio avviso, soprattutto Monte dei Paschi, meno 6,36% dopo l'abbassamento di voto da parte di Moody's di due livelli. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Monte dei Paschi. Sì, Monte dei Paschi ha pagato, insomma non ci sono bisogno di molti commenti, meno 6,4% dopo questa decisione di Moody's di tagliare di due gradini il rating e quindi portarlo a un livello che non è più quello dell'investment grade, ma è quello cosiddetto junk, cioè appunto spazzatura. Una decisione a sorpresa, peraltro contestata esplicitamente dall'amministratore delegato del Monte dei Paschi Fabrizio Viola, che ha definita incoerente e ingiusta sia per la tempistica sia per la motivazione. Ma le motivazioni di Moody's mi interessano. Esatto, l'agenzia ritiene che sostanzialmente nonostante l'iniezione di capitale da 1,5 miliardi da parte del governo attraverso i Monti Bond, ci siano comunque probabilità reali che la banca abbia bisogno di un ulteriore sostegno dall'esterno dal punto di vista patrimoniale, e questo è il motivo, diciamo, che ha portato Moody's a una decisione così drastica e così contestata da parte dei vertici di Siena. Ecco, oltre a Monte dei Paschi, anche Ferragamo meno 4,27% soffre oggi, mentre riprende Pirelli più 1,90%. Per quanto riguarda Ferragamo è una correzione che secondo alcune case d'affari è piuttosto naturale per due ordini di motivi. Innanzitutto l'andamento del titolo, più 60% sostanzialmente nell'ultimo anno, più 90% dal collocamento in borsa avvenuto a giugno del 2011. Dall'altro canto la questione è che i ricavi di Ferragamo potrebbero essere relativamente rallentati, soprattutto per il rallentamento delle economie asiatiche e quindi del giro d'affari del gruppo del lusso in quell'area. Per quanto riguarda invece Pirelli, un buon recupero dopo qualche seduta in cui il settore dei pneumatici è stato messo sotto pressione da allarme utili da parte della finlandese Nokian, da qualche dubbio sui volumi, sull'andamento dei volumi nel 2013, che aveva penalizzato anche Pirelli, ecco che invece un recupero di borsa significativo, come altri titoli industriali, Buzzi, ST Microelectronics, Prysmian. Ancora Mediaset, dopo alcuni giorni buoni, oggi di nuovo in calo. Qui ci sono i dati della raccolta pubblicitaria, no? Sì, meno 3%. Ieri sono circolati i dati Nielsen, i primi dati Nielsen sulla raccolta pubblicitaria di agosto e dei primi 8 mesi dell'anno, un mercato pubblicitario difficile per tutti, ma in particolare per Mediaset, che dall'inizio dell'anno nei primi 8 mesi ha registrato un meno 13,5%, quindi superiore alle attese già negative degli analisti, che parlavano di un meno 10, e agosto è stato un mese particolarmente difficile, meno 32%. Per questo il mercato si attende un finale d'anno molto difficile, un terzo trimestre altrettanto difficile, e per questo il titolo è stato penalizzato con un meno 3%. Ancora oggi tra i titoli vediamo soffrire anche Tenaris, ma tra chi è andato bene invece Buzzi Unice in più 1,80, ST Microelectronics più 1,5, Prysmian più 1,5, Popolare Milano più 1,15. Percento, dicevo, chi ha perso: Campari il 3%, Impregilo 2,80, Ansaldo, STS l'1,60, Atlantia 1,5%, Tenaris l'1%, Fiat meno 1,30%, il miglior titolo Arena più 40%, e vorrei un commento, il peggiore Cape Listed meno 9,70, ma qui c'è operazione in corso, e Zucchi meno 8,94. Chiudiamo con Arena. Qui è un caso di ristrutturazione, è arrivato l'ok ieri dei principali soci e dei principali creditori al concordato preventivo del gruppo alimentare, e quindi il titolo ha guadagnato il 40%, sono state raggiunte appunto le soglie per l'omologa del concordato preventivo. Gruppo in forte stress finanziario, è chiaro che un annuncio di questo tipo ha rilanciato il titolo, che però vale tuttavia ancora 45 millesimi, insomma. Grazie Andrea Fontana. Invece è appena arrivata la notizia di come si è chiusa l'ultima giornata dell'asta dei nostri BTP. L'Italia praticamente è riuscita a trovare in questi tre giorni 18 miliardi di euro di finanziamenti al suo debito. Oggi, solo oggi, 7 miliardi e 8 con rendimenti in calo. È veramente una bellissima notizia, visto che veniamo da un anno di tensioni sullo spread e quant'altro. Le campane qua ci vogliono. Basta, ho capito, basta, fermi. Dottor Drusiani, buonasera. Buonasera. L'ottimo andamento delle aste dei BTP italiani in tre anni, raccolti 18 miliardi di euro. Fatemi solo chiudere con chi dice: ma te provi lei a fare politica, Barisoni, per 4-5 anni, magari gratis, per poi tornare nel mondo del lavoro e vedere cosa succede al suo reddito. E questo per dire cosa? Che bisogna giustificare i vitalizi ai deputati? E Tassone che dice 6.800 euro lordi di vitalizi al mese sono pochi? Guardi che la politica uno la fa per vocazione, mica per obbligo. Non è la Naia, che non c'è nemmeno più. Ma che è sta storia? Uno va a far politica, se è dipendente, viene messo in aspettativa, se è un libero professionista avrà fatto i suoi calcoli e dice: posso permettermi di stare 5 anni in Parlamento. Ma poi io non ho capito che lavoro faceva Tassone prima del 76. Secondo me non si ricorda neanche lui. Comunque, dai, Drusiani, belle giornate. In tre sedute abbiamo raccolto 18 miliardi di euro, cioè più di quanto abbiamo mai raccolto in 8 aste. E penso a quella di marzo da 7 miliardi e 3, o quella di giugno deludente da 1 miliardo e 7, con tutti i rendimenti in calo. C'è stata una corsa vera e propria a comprarsi il BTP a 4 anni indicizzato all'inflazione, che rende solo come rendimento minimo garantito il 2,55%. Se mettiamo questo assieme a quello che è successo oggi in Spagna, che ha fatto il botto in senso positivo, ossia ha collocato tutti i 4 miliardi e 600 milioni di euro di BTP a 2015, 2016, 2022, possiamo dire che in maniera anche abbastanza prepotente sono tornati gli investitori esteri sul debito italiano e spagnolo a comprarselo? BTP Italia non c'è dubbio, perché un rendimento così se lo sognano da tutte le parti. Il rapporto rischio-rendimento secondo me è molto interessante. Tenga conto ad esempio che un BTP con una scadenza analoga a 15 settembre 2016 con cedola 4,75, ma un BTP normale, rende intanto il 3,20, ma costa 106 quasi, quindi già questo costa 100, quindi alle persone piace molto di più. In più gli investitori esteri non vedevano l'ora, perché a fianco del 2,55 di cedola sommeranno l'inflazione che è maturata nei primi 6 mesi. Tenga sempre conto che il primo BTP emesso, quello con scadenza 26 marzo 2016, ha pagato una prima cedola lorda quasi del 5,50, tenendo conto della cedola più dell'inflazione maturata, quindi è una vera manna questa secondo me. Ecco, possiamo dire che una volta che Mario Draghi è intervenuto con il piano, chiarendo il piano, cosa farà la BCE nel caso di paesi in difficoltà, e visto che anche Angela Merkel, adesso ne parliamo, continua a dire da settimane che la Grecia va salvata, molti investitori che si erano rifugiati in Bund tedeschi adesso vedono che insomma con quel rendimento lì che è sotto l'inflazione non si va da nessuna parte, e sono tornati a comprarsi paesi prima considerati più a rischio come l'Italia e la Spagna, perché ormai la vulgata è che tanto l'euro non salterà e quindi conviene prendersi un rendimento ben più interessante come quello spagnolo o italiano. E questa è la logica? Non c'è dubbio che quando alla Banca Centrale Europea è arrivato un uomo che di mercato se ne intende, e non poco, visti i suoi trascorsi, visto che ha vissuto gran parte della propria vita lavorativa, il sentimento è cambiato notevolmente, l'aria è cambiata notevolmente, nel senso che lo si voglia o no, i mercati hanno in questo momento una prevalenza sui governi, quindi sono loro purtroppo, per fortuna, a dettare le regole. Un uomo che conosce bene come si muovono i mercati, quali sono le attese dei mercati, si è mosso in maniera tale che i mercati in qualche modo, lentamente, perché ovviamente devono fidarsi, hanno capito che forse siamo, non dico alla svolta, però siamo vicini alla svolta. Eh sì, è la sensazione che abbiamo anche noi, di cui parleremo anche adesso. Devo dire che l'indicazione che arriva dal debito, ora è chiaro che meno ti fidi di un paese, meno hai voglia di comprare il suo debito, a meno che non offra rendimenti molto alti. Ecco perché vedere che c'è stata una grossa domanda di debito italiano con rendimenti in calo è una bellissima notizia, perché vuol dire che l'Italia intanto spende meno, ma si stanno tranquillizzando e calmando le acque. Lei si attende tassi in ulteriore calo, Drusiani? Io mi auguro che questa situazione continua, soprattutto mi auguro che dal vertice di oggi finalmente, non dico che esca l'unità perché è ancora abbastanza difficile, però che ci siano meno tensioni di quanto è successo nel passato, perché molto spesso queste riunioni sono concluse con nulla di fatto e i mercati subito le hanno penalizzato i paesi più deboli. Quindi io ho l'impressione che ho, a parte il discorso del fatto riferimento al Presidente della Banca Centrale Europea, ho l'impressione che forse anche gli altri paesi, anche quelli virtuosi, cominciano a capire che gioco forza, bisogna stare tutti uniti. Lasciare uscire un qualsiasi paese corrisponderebbe veramente al fallimento dell'euro. Adesso che adesso che hanno appena dato il Nobel per la pace, io credo che possa essere uno stimolo a vedere di migliorare anche la situazione economica e politica. Ah, guardi, adesso ne parleremo immediatamente. Intanto la ringrazio, grazie al responsabile di gestione di banca Bertini Saioz, Angelo Drusiani, perché le indicazioni da questo punto di vista, ripeto, sono chiare, e ha fatto il colpo grosso, per ora perlomeno, chi si è comprato i BTP italiani a aprile e marzo con rendimenti diciamo vicini al 7%, perché quelli se li porta a scadenza un rendimento così per ora, e speriamo di non vederlo più perché era una situazione molto critica per il paese, è un rendimento assolutamente invidiabile. Allora, visto che già veniva evocato, parliamo adesso di Europa, del Consiglio europeo, e rispolveriamo anche la nostra ballata dell'euro. We'll be right back. Sergio Nava, inviato di Radio 24 a Bruxelles, buonasera. Buonasera. E dunque, di Angela Merkel e delle sue dichiarazioni di questa mattina al Bundestag, quando ha detto vorremmo un commissario europeo capace di intervenire nei budget, nelle leggi finanziarie dei vari governi, questa è la notizia forse più forte, ma vorrei, cioè deve avere la possibilità di ingerire, di rito di ingerenza. Vorrei sapere le reazioni sulle dichiarazioni di Angela Merkel e in realtà se anche a Bruxelles si respira quell'ottimismo di cui parlavamo adesso con Angelo Drusiani sui debito spagnolo e italiano in primo luogo. Ma diciamo, partendo dal primo punto, possiamo dire che le reazioni sono state inaspettatamente molto aspre. Parlo della reazione di François Hollande, che arrivando ha di fatto bollato come dichiarazioni elettorali quelle di Angela Merkel. Ha detto abbiamo calendari diversi, in questo momento la Germania ha delle elezioni in arrivo, per cui capisco che debba chiedere certe cose, come appunto questo super commissario europeo agli affari economici, però noi dobbiamo avere comunque un senso di responsabilità comune, ha detto Hollande, e guardare all'interesse. E bisogna dire che questo vertice, un po' contro tutte le aspettative, si è aperto con uno scontro molto forte, Francia-Germania, scontro che abbiamo visivamente visto qui dalla TV a circuito interno, con Merkel e Hollande che hanno discusso animatamente anche prima dell'inizio del vertice, hanno avuto un incontro bilaterale. Per quanto riguarda l'ottimismo su Spagna e Italia, l'Italia non è in realtà più in agenda, questa è la buona notizia, ormai da diverse settimane l'Italia è uscita dall'occhio del ciclone, la Spagna si continua ad aspettare che faccia ricorso, che chieda il salvataggio europeo, che chieda il ricorso al fondo salva stati, in modo da poter poi attivare il meccanismo anti-spread varato dalla Banca Centrale Europea a settembre. Allora ascoltiamo in sequenza, prima Angela Merkel, tu ricordavi di questo scontro perché Hollande ha risposto in maniera molto brusca a Angela Merkel, che ha detto bisognerebbe avere un commissario europeo in grado di avere il diritto di ingerenza, ha detto non è questo il tema oggi parliamo di vigilanza bancaria, oggi infatti il tema è come dare alla Banca Centrale Europea il potere di vigilanza su tutta l'area euro, di vigilanza bancaria, un po' come fanno le singole banche centrali sulle banche nazionali, Angela Merkel e poi Hollande. In questo summit affronteremo il tema dello sviluppo dell'unione economico-monetaria. A questo appartiene anche la vigilanza bancaria. Il secondo tema sarà quello di un più stretto coordinamento politico ed economico, soprattutto nell'Eurozona. Terzo tema, la cooperazione di bilancio. Infine, la questione della legittimazione democratica. Oggi e domani non prenderemo decisioni, ma prepareremo le decisioni da prendere al vertice di dicembre. Tuttavia, occorre affrontare questi argomenti nel modo giusto. Per questo abbiamo molto da fare nelle prossime ore. Nel mese di giugno abbiamo preso delle buone decisioni per l'Europa. Il compito di questo Consiglio europeo è applicare nell'interesse dell'Europa queste stesse decisioni. Ci sono proposte per rafforzare l'unione di bilancio. Ne parleremo più avanti. Al momento l'ordine del giorno di questo summit è mettere in atto l'unione bancaria. Con la signora Merkel discuteremo certamente le prossime tappe. Ma prima di prendere decisioni in merito, dobbiamo concludere la tappa dell'unione bancaria. Ecco, Sergio Nava, al di là delle scaramucce tra Angela Merkel e François Hollande, di cui parleremo tra poco con Daniel Gross in collegamento anche lui da Bruxelles, è immaginabile che tra oggi e domani arrivi qualcosa di più di una dichiarazione di intenti sulla vigilanza bancaria o bisognerà aspettare il vertice di dicembre? Molto probabilmente occorrerà aspettare il vertice di dicembre, anche perché questo è il piano, anche per partire poi con un primo gruppo di banche tra le 6.000 dell'Eurozona sotto supervisione BCE a partire da gennaio. Non è solo una supervisione bancaria, perché dietro si nasconde, tra virgolette ovviamente si nasconde, la possibilità di ricapitalizzare direttamente le banche in difficoltà da parte del Fondo Salva Stati, e questo è un'iniezione importante per quei paesi, al momento ad esempio la Spagna, che vedono ascrivere al proprio debito pubblico i soldi che arrivano dal Fondo Salva Stati e quindi entrano come passività di bilancio pubblico, quindi è un tema molto importante. potrebbe però, vista anche un po' lo sconvolgimento dell'agenda che c'è stato dalle dichiarazioni a Merkel, qualcosa potrebbe saltare fuori. Ad esempio c'è anche nell'aria la possibilità di un vertice dell'Eurozona a tarda serata, così è stata, questo è stato proposto da François Hollande. Farò un po', il Presidente europeo ha detto vedremo più avanti se ci sarà qualcosa in questo senso. Grazie a Sergio Nava in collegamento con noi da Bruxelles, e cercheremo di capire che cosa ha voluto dire Angela Merkel dicendo, e anche politicamente perché abbia fatto questo ingresso a gamba tesa dicendo che ci vuole un commissario europeo con poteri di ingerenza sui bilanci dei singoli paesi, sulle loro leggi finanziarie. Da Bruxelles ci ha raggiunto in collegamento Daniel Gross, che è direttore dell'Istituto del Centro per gli Studi delle Politiche Europee. Buonasera. Buonasera. Dunque, al di là del Consiglio europeo, dei temi della vigilanza bancaria, appunto, che Francia, Spagna e Italia vorrebbero operativa già dal 2013, questa mattina Angela Merkel, come ricordavamo, ha detto: sono d'accordo con il commissario Schäuble, e quindi la Germania è favorevole ad andare avanti verso un commissario europeo della moneta che abbia un effettivo diritto e quindi anche potere di ingerenza nei bilanci nazionali. La Francia, tramite Hollande, ha detto: stiamo parlando di altro oggi, di vigilanza bancaria, non è questo il tema, stiamo attenti a non fare prevalere le ragioni elettorali. Qui si profila una nuova posizione, Gross, cioè abbiamo una Germania, una Merkel, che è più morbida nelle ultime settimane con la Grecia e quindi con la necessità che la Grecia comunque resti nell'euro, e però chiede a questo punto di avere un commissario europeo che possa intervenire prima che i governi facciano le leggi finanziarie, il bilancio, questo vuol dire, possa ingerire. Mi sembra che la posizione francese invece su questo sia molto più fredda, per essere buoni. È chiaro, la Francia ha sempre parlato di più integrazione, ha sempre voluto una governance europea dell'economia, ma questo implicherebbe anche che l'Europa avrebbe un diritto di ingerenza nei bilanci nazionali. Per cui, se si vuole essere coerenti, se si vuole l'unione bancaria, se si vuole anche l'unione fiscale, è chiaro che l'Europa dovrebbe avere un diritto di ingerenza anche nella politica fiscale nazionale. In questo senso la Merkel vuole solamente essere coerente. Penso che si accorgerà fra poco che molti altri stati non lo vogliono, ma a questo punto è chiaro che il piano per un'unione fiscale non andrà in porto. Sì, unione fiscale vuol dire appunto l'idea che si condividano a livello europeo le leggi finanziarie, cioè che la legge in questo momento ogni paese fa il suo budget, la sua legge finanziaria, propone degli obiettivi di deficit e di debito e poi si va a vedere quello che succede. Nel caso greco, ma non solo, abbiamo scoperto perché avevano perfino truccato i conti. Lei dice, Angela Merkel è disponibile ad avere un'unione bancaria, ad avere anche, diciamo, a farsi carico delle difficoltà dei vari paesi, a patto che però ci sia un'Europa più forte che può vigilare prima, diciamo, che la finanziaria venga fatta, e ingerire in questo senso. Devo dire che, pur avendo criticato molto Angela Merkel in questi mesi, in questi anni, mi sembra che in questo caso lei abbia ragione. Cioè, se si chiede all'Europa di fare da garanzia per i vari paesi che aderiscono all'euro, è chiaro che l'Europa deve avere anche più potere prima per andare a vedere quello che fanno i vari paesi con le loro finanze. Ma secondo lei la posizione della Francia non sarà quindi superabile? No, la Francia già nel passato, quando si è parlato di, appunto, di piani di coordinare di più la politica economica, ha sempre detto: lo vogliamo fare, ma a patto che nessuno metta il naso nei nostri affari domestici, perché noi siamo uno Stato sovrano. Naturalmente anche la Merkel non è totalmente, come dire, non onesta, ma non la dice tutta, perché è chiaro che per lei questo supercommissario avrebbe un diritto di ingerenza solamente nei paesi che hanno un deficit o che hanno bisogno di soldi. Naturalmente per lei sarebbe sottinteso che la Germania potrebbe continuare a fare quello che vuole, visto che ha un budget in equilibrio. Non sarà sempre così, ma almeno per il momento i tedeschi e altri pensano: ah, per noi tanto questo non è un problema, ma sarebbe solamente per tenere sotto controllo gli altri. Sì, anche se ricordiamo che proprio la Germania nel 2003 fu il primo paese a sforare i tetti di Maastricht, poi arrivò anche la Spagna, quindi non è detto che poi non debba capitare anche alla Germania di essere messa, tra virgolette, sotto vigilanza. Però ho capito il suo ragionamento, in questo momento Angela Merkel ha gioco facile nel dire creiamo un commissario europeo con poteri di intervento quando i governi dei singoli paesi fanno i bilanci, fanno le leggi finanziarie, perché tanto se questi paesi o sono in difficoltà o chiedono aiuti al Fondo Europeo di Salvataggio, perché tanto ritiene che la Germania non sarà né in difficoltà né chiederà aiuto. Però, tornando sulla posizione francese, la Francia insiste molto su questa unione bancaria, ma ripeto, il veto francese potrebbe a questo punto compromettere tutta l'idea di una maggiore integrazione delle politiche economiche e fiscali europee, e a quel punto la Germania potrebbe tornare a irrigidirsi? Non penso che l'idea di un'unione bancaria sia repentaglio, perché la Germania ha visto che sarebbe nel suo interesse di avere la BCE come supervisore delle banche in tutta l'Europa, perché i supervisori nazionali hanno sempre la tendenza di non vedere i problemi, e alla fine questi problemi poi cadranno anche sulla Germania. Per cui su questo punto penso che si andrà avanti comunque, ma su altri punti di integrazione più importante non penso che si possa avanzare, se la Francia dice noi siamo un paese sovrano e non possiamo permettere ai burocrati di Bruxelles di dettarci la nostra politica fiscale. Grazie anche al direttore del Centro per gli Studi di Politica Europeo, Daniel Grossi, in collegamento da Bruxelles. Arrivederci. E devo dire che è stata una puntata di notizie positive tra l'asta dei BTP italiani, un'Europa che comunque al di là degli scontri Merkel e Hollande va verso una maggiore integrazione sulla vigilanza bancaria, l'asta spagnola, la borsa tutto sommato buona. Diciamo che la giornata ce l'ha rovinata solo il deputato Tassone con quella sua dichiarazione ad Alessandro Milan che 6.800 euro lordi di vitalizio sono pochi, Tassone. Buona serata anche a lei comunque, nonostante le sue sofferenze e difficoltà economiche. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.